America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Да, я считаю, что il primo ministro russo Dmitry Medvedev, l'avete sentito in russo naturalmente, ma quel che dice, beh, devo dire, non è molto tranquillizzante, perché nel momento in cui sembrava che la tensione potesse in qualche modo allentarsi anche in Ucraina, nel momento in cui sembrava che questa cappa che ormai aleggia sull'Europa da troppo tempo potesse aprirsi, beh, devo dire, ha portato un messaggio non necessariamente incoraggiante. Stiamo andando lentamente ma inesorabilmente verso la direzione di una nuova guerra fredda, ha detto. Questo non è nell'interesse di nessuno. Per ora, continua, non abbiamo commentato o reagito all'introduzione delle sanzioni, ma potremmo fare qualcosa di spiacevole nei confronti di quei paesi che hanno deciso queste sanzioni. Pogromi, нападения на полицию, нарушение всех европейских норм поведения. Ecco, questo invece è il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, dice la crisi in Ucraina porterà la Russia a un serio ripensamento delle proprie relazioni con l'Unione Europea e con la NATO, di nuovo un atteggiamento non, come dire, per il dialogo, per l'apertura da parte americana, da parte di Washington, è sempre stato un atteggiamento aperto, cioè ci sono delle incompressioni, ci sono delle difficoltà, ci sono dei punti di vista diversi, ci sono dei gruppi etnici che hanno bisogno di una loro autonomia, dunque sediamoci intorno a un tavolo, procediamo con queste elezioni in Ucraina il 25 maggio, domenica, che dovrebbero dare una stabilità democratica, una trasparenza alla struttura di governo di questo paese trafitto da decenni e decenni, da mille crisi, e a quel punto si riorganizzerà un assetto istituzionale, costituzionale, che consentirà di delegare i poteri alle regioni dove ci sono per esempio delle maggioranze russe. Ecco, questa linea, la linea del dialogo, non è passata, è invece passata la linea del confronto, quella della prova di forza, è quella dell'affermazione di una grande potenza nei confronti di un piccolo paese, sapendo che il resto del mondo comunque non muoverà un dito, perché questa è la situazione di fatto nella quale ci troviamo. Ecco, c'è un aspetto simbolico in tutto questo che mi colpisce, e cioè è che proprio mentre ci prepariamo a queste elezioni in Ucraina, si sta votando in Europa, 400 milioni di persone stanno andando alle urne, questa Europa che dà, nonostante da più parti ci siano delle forze centrifughe, nonostante da più parti ci siano degli attacchi per esempio all'euro, alla moneta unica, alla stabilità di questo vecchio continente, nella realtà dei fatti c'è questa straordinaria dimostrazione popolare. Ieri avevamo il presidente della Camera Boldrini qui a New York, la quale in un incontro al GEI, il gruppo esponenti italiani, ha detto con grande passione, incoraggiato con grande passione tutti ad andare al voto. Votate, votate, votate, andate alle urne, perché è importantissimo esercitare non soltanto i nostri diritti democratici, ma contribuire a dimostrare che l'Europa c'è. Ecco, noi naturalmente, questo lo diceva anche a noi, noi però qui da New York non possiamo votare, mentre le nostre strutture consolari ci consentono di votare per le elezioni italiane, per le elezioni interne, non si è ancora messo a punto un meccanismo che ci consente di votare appunto per le elezioni europee. Perché? Perché purtroppo, e questo è uno dei limiti che dovremo superare, su cui si deve lavorare, le amministrazioni poi locali continuano a muoversi ciascuna per conto suo, quindi le schede europee all'estero ancora non ci sono. Ecco, possiamo immaginare che le elezioni in Europa andranno bene, ma la questione di fondo, secondo me, che dobbiamo affermare è che questa Europa, che ha preso un premio Nobel per la pace, ricordiamolo, attribuito in nome del fatto che l'Europa ha combattuto, ha avuto delle guerre interne, delle guerre civili, la prima, la seconda guerra mondiale, ma questa Europa ha superato nel dialogo e nella democrazia la guerra. E certo, sarebbe ben triste se poi nel cuore dell'Europa, perché l'Ucraina è in Europa, dovessero esserci di nuovo degli atti di violenza e degli atti bellici. I do see indications that Russia is sending out signals designed to express some degree of. Avete sentito poco fa il mediatore dell'OSCE per l'Ucraina, il diplomatico tedesco Wolfgang Ischinger, ha detto che si aspetta uno svolgimento più o meno normale, queste sono le sue parole, per le elezioni presidenziali ucraine di domenica, tranne che per un'area a est del paese alle prese con la ribellione separatista filorusso. E la sua dichiarazione, e penso alla luce dei rapporti che abbiamo ricevuto, che possiamo partire dall'assunto che le elezioni si svolgeranno in buona parte del paese in modo più o meno normale. Ecco, dobbiamo auspicarlo anche noi. E dunque vi avevo raccontato in una precedente puntata la storia di questa bellissima canzone pacifista di Pete Seeger, che avevo usato in passato proprio parlando dell'Ucraina, Where Have All the Flowers Gone, e vi avevo detto che avrei cercato di lavorarci meglio, avevo improvvisato così una piccola interpretazione di questa canzone in italiano per tradurla, per darvi un'idea di quello che potevano essere i versi in italiano. Ecco, ne ho fatto una traduzione completa, spero di poterla mettere su YouTube, su internet oggi, quindi potrete anche poi cercarla e trovarla. Vi do una piccola anticipazione. Dove sono finiti i fiori nel tempo che passa? Dove sono finiti i fiori nel tempo che fu? Dove sono finiti i fiori? Li han colti tutti le ragazze, quando mai impareranno, quando impareranno mai. Ecco, vi dicevo, l'ho tradotta per intero, ho cercato di essere il più fedele possibile al testo originale, cosa che non è stata necessariamente facile, ma vi ricordo che questa canzone è stata scritta da Pete Seeger nel 1955 mentre andava a un concerto nell'Ohio, e lo ha fatto ispirandosi a una canzone ucraina che era stata tramandata nel libro Il Placido Don dello scrittore russo Mikhail Sholokhov. E dunque è una canzone che in qualche modo così, come dire, dovrebbe far prevalere la possibilità sull'ottusità, l'ottimismo sul pessimismo, diciamo la speranza alla fine, che le cose si possono fare insieme. Questa canzone è fra le 20 più grandi canzoni politiche americane e, pensate, è stata scritta da un americano ispirandosi a un testo ucraino cosacco e utilizzando una musica russa. Convivere con il multiculturalismo oggi non è soltanto possibile, è una necessità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, non posso che dedicarla a Pete Seeger in una sua interpretazione di un'altra canzone di speranza, We Shall Overcome. Oh, da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.